Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, giornata dedicata a buone letture e ad un ricco panorama internazionale. Poi buone per modo di dire queste letture, anzi molto per modo di dire, ma cosa che è bene sapere, che è interessante sapere, sempre per via della completezza dell'informazione. Ho quattro ricchi ritagli sotto mano, usciti tutti sui quotidiani di stamane. Comincio con uno di Repubblica, pagina 24, Impresa e mercati, dunque non un argomento sportivo, ma con un riverbero discreto, direi, se è vero che questa inchiesta titola Saras gonfiata per la borsa e per l'Inter. La perizia dei PM indica in 700 milioni il plus valore pagato per la società di Moratti, e l'articolo di Walter Garbiati comincia così: quel titolo valeva tra 4 e 5 euro per azione, invece le banche e la famiglia Moratti lo hanno piazzato sul mercato a 6 euro e per farlo, secondo la ricostruzione del consulente tecnico della Procura di Milano Marco Onegger, non avrebbero pubblicato alcuni dati rilevanti nel prospetto informativo. Il lungo articolo comprende anche una mail di JP Morgan che svela 500 milioni per coprire i debiti di uno dei fratelli, ragionevolmente imputabili per l'appunto a quella società calcistica che viene richiamata nel titolo. Dunque vedete che sono buone poi per modo di dire queste letture. Ce ne sono altre che seguiranno nel corso di questa puntata, di segno completamente diverso, ma non meno inquietanti e non meno crude, soprattutto una ricavata dalla stampa di stamane. Però come tutti i martedì andiamo con ordine e rispettiamo gli appuntamenti. Il primo, il principale del martedì, è con il calcio internazionale, dunque con Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, un saluto a tutti. Un saluto a tutti, con tira delle correnti d'aria credo a Sky Sport 24 dalla voce. Un bel raffreddore, tosse e tutto il resto, però poi in realtà neanche malissimo, però è vero, effettivamente ci sono spifferi forti e quindi è capitato a me. Debutto di stagione, mi sembra il primo questo. Senti, ho sott'occhio un'agenzia, poi parliamo di tante cose, ma ho sott'occhio un'agenzia molto ma molto interessante. Allora, Wenger, allenatore dell'Arsenal, ha annunciato che nella partita casalinga di oggi, di stasera, contro Sheffield United, seconda divisione, per i sedicesimi di Coppa di Lega, schiererà la formazione più giovane della storia. I 18 giocatori che Wenger ha convocato hanno un'età media di 18 anni e mezzo. I più anziani sono Diouroux e Song, di 21 anni, e poi figurano tutta gente, evidentemente, per la media di 18 e mezzo, di 16, 17 e 18 scarsi, con una grande speranza del calcio gallese, 17enne, che si chiama Ramsey, un adolescente inglese, Wilshire, qualcosa del genere, di 16, e un attaccante messicano già vecchiotto, si chiama Carlos Vela, perché ne ha 19. L'Arsenal non è nuovo a politiche, adesso questa è un po' estremizzata magari, ma non è nuova a politiche di questo genere. Anzi, non è solo il raffreddore che può creare problemi di collegamento. Allora, introdotto l'argomento, in attesa di ripescare Fabio, no, già ripescato, eccolo qua, eravamo anzi Fabio. No, infatti dicevo, anzi, succede spesso che lui queste squadre le mette in campo anche in campionato, certo non con un'età media così bassa, però se c'è una società che può vantare una politica lungimirante, una politica non da oggi orientata ai giovani, questa è l'Arsenal. Credo che Wenger abbia così voluto in qualche modo anche rispondere, seppure indirettamente nei fatti, a una polemica abbastanza forte che sui giornali francesi è nata in questi giorni con Michel Platini. È un dato sul quale comunque è necessario riflettere, perché l'Arsenal non è che dice metto dentro i primavera perché non mi interessa la Carling Cup. In Inghilterra la Carling Cup non è importante come la FA Cup, evidentemente, ma è comunque una competizione che ha una finale che ferma il paese, ed è una competizione alla quale tutte le squadre tengono. Cioè, vincere una Carling Cup non equivale a salvare una stagione, però insomma a volte è servita per giustificare altri successi che non sono arrivati, e quindi non è che accade come da noi in Coppa Italia, quando gli allenatori mettono in campo o i primavera o giocatori che magari non vediamo mai in campionato. Noi qui siamo di fronte a una squadra che Wenger giudica in grado di giocare in in Carling Cup e di farlo dignitosamente, e certamente lo farà, perché Ramsey è comunque un giocatore che ha delle prospettive future importantissime, e tutti quelli che Wenger metterà in campo sono tutti giocatori, non lì per caso, ma tutti giocatori sui quali l'Arsenal ha investito con la sua rete di osservatori, che arriva anche in Italia, ma che evidentemente dall'Italia per il momento fa fatica a pescare. Credo che la polemica Wenger-Platini a cui ti riferivi tu fosse quella, insomma, che aveva visto il presidente dell'UEFA accusare, adesso non dico di pedofilia, ma di qualcosa del genere, a proposito di giovanilismi eccessivi in squadra, proprio l'Arsenal, cioè di andare a catturare giovani un po' dappertutto nel mondo. Con un aggiornamento però, Gigi, perché sì, i due si sono un po' scornati negli ultimi giorni sui giornali francesi con questo... Per questo motivo, Wenger è da un po' di tempo favorevole alla prova televisiva. Sì, cioè, alla moviola in campo. Alla moviola in campo. Mm-hmm. Viceversa, Platini è totalmente contrario. In queste interviste Wenger fa un po' capire che secondo lui Platini è un, non dico sorpassato, ma insomma è esponente, è rappresentante di una corrente di pensiero che non è più moderna, e invece Platini, che secondo me è in grado di tener botta tranquillamente, dialetticamente, a Wenger, ha detto: io sono un po' preoccupato quando gli allenatori fanno un po' troppo i manager o i mercanti. Esatto. C'è un aggiornamento battuto da un paio d'ore delle agenzie, in cui il termine usato da Wenger a proposito di Platini è retrogrado, e la risposta di Platini è: io mi interesso di calcio, Wenger del suo business. Sì, è vero, è vero. Quindi insomma, c'è fair play, se vogliamo, ma entro certi limiti. Comunque fair play a muso ben duro. Un'altra curiosità, io vado di curiosità, poi tu ovviamente se invece vuoi scegliere un tema più fondato... Va bene, fermo restando che poi su questo argomento interverranno anche gli ascoltatori, come di consueto, all'800 24 00 24. Ed è questo. Ci sono stati 7 ammoniti del Manchester United in Chelsea-Manchester di domenica. Esattamente Scholes, Ferdinand, Neville, Berbatov, Rooney, Evra e Cristiano Ronaldo. La federazione inglese, o la Lega, la Football Association, cos'è? La Lega? Football Association è la federazione. È la federazione. Automaticamente apre un'indagine quando una squadra chiude una partita con 6 o più cartellini gialli all'attivo, e quindi potrebbe esserci una sanzione non tecnica, ma una sanzione amministrativa forte nei confronti dello United. È curiosa questa? No, è curiosa, e potrebbe anche suggerire a qualche altra federazione di poterla attuare. È evidente che così tante ammonizioni fanno pensare a una partita maschia, e certamente lo è stata quella Stamford Bridge. Non dimentichiamoci che queste due squadre a maggio giocavano di notte in Russia, sotto la pioggia, una finale di Champions League ai calci di rigore. Certo. Quindi è evidente che ogni loro incrocio sarà mai un incrocio normale. Tra l'altro c'è stata una polemica discreta tra i due allenatori, che sono due gentiluomini, ma sono comunque due che, se c'è da dire qualcosa, non contano fino a 5, che sono Sir Alex Ferguson e Felipe Scolari. Scolari ha accusato abbastanza apertamente il Manchester United di aver picchiato. Ferguson ha respinto le accuse al mittente. Io credo che ci possa anche stare. Sinceramente preferisco una partita dove vedo 7 ammoniti piuttosto che 2 espulsi per proteste, come è accaduto a Modena settimana scorsa in Serie B. Per cui direi che la regolarità della partita è chiaro che con 7 cartellini gialli hai 7 giocatori che rischiano di essere espulsi al prossimo intervento, e quindi sono un po' condizionati. Però il fatto che si finisca 11 contro 11, secondo me, è già un bel prendere. Sì, sicuro. Ci sono poi altre 2 inchieste passibili di apertura, come dire, su quella partita, cioè quello scontro finale Ferdinand Drogba con Drogba infortunato, e una bottiglietta lanciata contro Ferguson dalle tribune del Stamford Bridge, perché si giocava in casa del Chelsea. Ma mi pare che il perlomeno per noi italiani, l'evento del fine settimana britannico sia stato il debutto, anche lì, di Michele, ma soprattutto di Zola sulla panchina del West Ham. Sì, noi tra l'altro poi l'abbiamo sentito anche alla fine della partita, lui era distrutto, era fisicamente provato da questa partita ed era veramente prosciugato, come se l'avesse giocata. Poi l'abbiamo osservato tanto in panchina, ha esultato ai gol come manco li avesse segnati lui, cioè, secondo me ha esultato di più dalla panchina rispetto a come esultava lui quando li segnava. Lui sentiva moltissimo, perché mentre la prima partita era... in giacca e cravatta ed era in tribuna. In questa partita lui era in panchina con la tuta, con le sue iniziali sul petto e sulla tuta del West Ham, e quindi era una partita che lui sentiva tanto. Poi, siccome noi comunque cerchiamo di capirci sempre un po' di più, va detto che non esiste in questo momento difesa migliore in Europa da affrontare che quella del Newcastle per poter fare dei gol, e insomma effettivamente in un paio di situazioni il West Ham ha potuto beneficiare della dabbenaggine dei difensori del Newcastle. Però è un dato di fatto che un giocatore come Di Michele, che in Italia sembrava non avere più spazio, è andato là e ha già fatto il fenomeno, perché ha fatto due gol, il terzo l'abbiamo un po' spacciato per assist, in realtà ha sbagliato il tiro. Esatto. Poi quando sentirai Nicola Roggero, te la racconterà lui, che ha raccontato appunto la partita, e lui ha detto: era talmente bello il pomeriggio che almeno all'inizio non me la sono sentita di dire che aveva ciccato il tiro. Poi però in studio con noi ha ammesso che non era certamente un assist, e quindi molto bene. Poi secondo me il valore di Zola come allenatore lo vedremo nei prossimi 2-3 mesi, non puoi certamente misurarlo da una vittoria col Newcastle, però certamente l'impatto è stato un impatto importante. Certo, farei un breve intervallo per aggiornare il traffico e per poi spostare leggermente il tiro e brevemente il tiro sulla Germania, in particolare magari anche sulla Spagna. Dicevo Germania, e tornando in collegamento con Fabio Tavelli, non si può negare che tra i tanti alti e bassi che caratterizzano un po' tutti, stavo per dire i mercati europei, i campionati europei per quanto riguarda le grandi squadre in questa fase d'avvio, un 2-5 in casa, che era uno 0-5 originariamente del Bayern contro il Werder Brema, forse può restare nella storia, insomma. Certamente resta nella storia. Io non ricordo, ho provato anche a interrogare testimoni oculari con carta d'identità più datata della mia, ma nessuno si ricorda, certamente non all'Allianz Arena perché è uno stadio nuovo, ma insomma il Bayern che va sotto di 5 gol dopo un'ora di gara, perché non stiamo parlando di gol segnati al 90esimo quando i giocatori ormai sono bolliti, e qui stiamo parlando della prima fase del secondo tempo. Il Bayern era sotto di 5 gol, credo che il Werder si sia anche un po' fermato poi alla fine, e i due gol finali di Borowski, non a caso un ex del Werder Brema, sanno come dire di una resa totale da parte del Bayern di Monaco a un avversario che, pensate, mercoledì non era riuscito a fare un gol alla Nortosis, una squadra cipriota in Champions League, provocando credo una delle più grosse sorprese della giornata in Champions League. Werder Bremen è una squadra che ha delle potenzialità enormi per quanto riguarda l'attacco, ma è anche molto molto debole in difesa. Io penso che i tedeschi non da oggi, ma a maggior ragione da sabato, si stiano domandando se era proprio il caso di andare a scomodare Jürgen Klinsmann e di farlo tornare. Io, pur avendo un'estrema simpatia della persona e del personaggio, ritengo che lui sia un allenatore non in grado di guidare una squadra come il Bayern di Monaco, che quello che ha fatto con la nazionale ai mondiali del 2006 sia stata ordinaria amministrazione. I tedeschi lo adorano e io rispetto questo, però non riesco a pensare lui come un grande allenatore, e temo che se ne stiano accorgendo anche a Monaco. Potremmo fare un rapidissimo passo indietro per accontentare Renato, che domanda a Vittorio Veneto se secondo te Berbatov può avere snaturato il gioco dello United. Ma snaturato è una parola grossa, però certamente un giocatore come Berbatov non lo inserisci così in una settimana. Berbatov è un grande giocatore, è un giocatore tecnicamente con pochi eguali, ed è un giocatore che ha bisogno di giocare da Berbatov, ed è chiaro che si innesta in un meccanismo di una squadra che ha vinto la Champions League e la Premier League, quindi non una squadra che aveva bisogno di particolari ritocchi. Penso che loro abbiano pensato anche a questo, e che Berbatov sia un giocatore che non farà dei danni. È evidente che mettere insieme Cristiano Ronaldo, poi quando starà bene, Tevez, Rooney e Berbatov non sarà facilissimo. Io invece credo che Berbatov con due degli altri tre sia quasi il massimo possibile in questo momento a livello mondiale. Sempre senza nasconderci che Cristiano Ronaldo già a gennaio potrebbe salpare in direzione Madrid, ma queste sono cose... È vero, sì, può essere davvero che il Manchester United abbia già speso una cospicua rata di denaro che incasserà dalla cessione di Cristiano Ronaldo, è vero. Mentre in Italia in testa della classifica ci sono già Juventus e Inter e Catania, Atalanta, Lazio eccetera, sono a quota 6, in Spagna invece il Barcellona Il Reale a 6, il Barcellona a 4, ma in testa insieme al Valencia c'è per esempio l'Almeria, che è un po' come dire il Catania, no? Anche da un punto di vista geografico. E quindi cosa vuol dire? Che là dura un pochino di più questo rimescolamento, oppure si stanno ridelineando i valori classici? No, io credo di no, anche perché onestamente vedere come il Barcellona ha seppellito lo Sporting Gijón è stato una dimostrazione di forza talmente devastante nei confronti del povero Gijón che mi fa pensare che il Barcellona è comunque destinato nel giro di 3 giornate a tornare nelle posizioni che merita. Il Real Madrid non gioca molto bene, onestamente anche a Santander ha avuto bisogno di segnare quasi in contropiede, però sai, c'è chi Van Nistelrooy ce l'ha contro e chi ce l'ha in squadra. Chi ce l'ha in squadra spesso ne ha beneficio. Ti voglio solo dire della partita di Gijón che ho visto mentre ero in studio in conduzione, quindi non senza audio, sul gol dopo il gol del 5-0 tutto lo stadio si è alzato in piedi ad applaudire la squadra che stava perdendo, e questo secondo me è una dimostrazione di grande amore e di grande sportività, perché tu stai ancora a 0 punti, sei una squadra che difficilmente si salverà, prendi 5 sberle da una squadra che tutti dicevano fosse in crisi, e al gol del 5-0 tutti si alzano in piedi ad applaudire e a esporre i vessilli. Forse dalle nostre parti li possiamo prendere per pazzi, in realtà certo. Credo sia stata una bella dimostrazione, e soprattutto non è andato via nessuno, perché tante volte assistiamo a gente che va via dallo stadio prima per non trovare certo, coda e tutto il resto, e sono rimasti fino alla fine. Fabio, da tutto il popolo di A Tempo di Sport un bacetto ad Alice, che sullo sfondo come colonna sonora ogni tanto reclamava giustamente il suo papà, che se però fa il commentatore di calcio internazionale al martedì gli tocca, e quindi un bacetto forse, ad Alice forse ci sta. Mi chiamava perché non era d'accordo su qualcosa, può darsi adesso controlla. Se per caso Alice avesse opinioni diverse su Berbatov o su qualcosa del genere, rifatti vivo. L'ho vista su Berbatov, si era arrabbiata tanto, adesso andiamo a discutere. Lei ha meno di 3 anni. Certo, evidentemente. Alice, buon pomeriggio a Fabio Tavelli. Arriva una smentita, dura, 5 parole, sono calunnie, niente di più. Così il presidente dell'Inter, Massimo Moratti, amministratore delegato della Saras, ha liquidato le indagini della Guardia di Finanza sui titoli Saras, da cui emergerebbero plusvalori destinati a coprire le spese della sua squadra di calcio. Moratti non ha aggiunto altro perché, ha spiegato, c'è un'indagine in corso. Ci sono già un paio di ascoltatori in linea, allora darei spazio a loro prima del secondo ritaglio di giornata, e sono incerto se scegliere una cosa molto molto forte sul ciclismo oppure una cosa molto molto forte sulla giustizia in Italia, non quella sportiva in questo caso. Sentiamo nel frattempo Riccardo, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, tifoso interista, volevo semplicemente fare un elogio a Mourinho, che mi sembra un allenatore di polso e forse la persona giusta che serve a non far trapelare delle indiscrezioni dello spogliatoio, mentre prima succedeva di tutto e di più. Lui mi sembra un po' la persona giusta. Volevo fare una domanda a lei. Semplicemente se quale potrebbe essere secondo lei la difesa, i 4 di giocatori difensori più adatti, considerando Samuel, Cordoba, Materazzi, tutto qua, perché se fossi l'allenatore dell'Inter avrei un'indecisione solo in difesa, insomma, su chi schierare. Beh, qualche indecisione in difesa l'Inter l'ha avuta fino adesso, anche ad Atene tra l'altro, poi tutto è sempre finito bene, ma non, insomma, altri reparti hanno convinto di più sino ad ora. Ma io credo che Maicon e Maxwell sugli esterni non si discutano. La coppia centrale, le soluzioni sono tante. Secondo me è imprescindibile Cordoba per la sua velocità e per i suoi recuperi. E poi si può scegliere a seconda del momento di forma tra gli altri. Cordoba Kivu secondo me potrebbe non essere una pessima soluzione, anzi forse la migliore in assoluto, Cordoba Samuel. A piacere. Sono problemi di Mourinho che oggi, leggo da un'altra agenzia, ma questo lo si sapeva, ha osservato una giornata di riposo mediatico alla vigilia di Inter-Lecce, sicché è toccato a Beppe Baresi, al suo vice occuparsene. Baresi è stato Beppe, quello interista, non il grande milanista, è stato spiritoso perché ha detto penso che rimanendo vicino a lui, visto che è giudicato, no, ha detto no, non so se Mourinho sia il migliore allenatore al mondo, perché sono alla prima esperienza del vice allenatore, però mi auguro che lo sia, in modo da poter diventare io il miglior vice allenatore al mondo, e questa mi sembra carina. Allora, passerei ad un'altra lettura, chiedendo un attimo di pazienza a un ascoltatore già collegato da Siracusa, e vi leggerei alcuni frammenti di un lungo articolo firmato Paolo Zigliani, uscito stamane sulla stampa. Riguarda il ciclismo e riguarda la proiezione sul mondiale di domenica a Varese. Leggo il testo. Non usa giri di parole Ivano Fanini, 57 anni, presidente del team ciclistico Amore e Vita, parlando dell'aria pesantissima che si respira a 5 giorni dalla gara professionistica dei mondiali di Varese. Fanini, che mondiali saranno? È la domanda. Risposta. Se la Rai facessero le cose per bene, domenica, al momento della premiazione, dovrebbero mandare un'indascalia che dica corridore Tizio, medaglia d'oro, dopato, corridore Caio, medaglia d'argento, dopato, corridore Semproni, medaglia di bronzo, dopato. Domanda. Le sue sono accuse molto gravi. Domanda. Constatazione. Risposta. Lo so, ma accadrà quello che avviene da anni nei giri d'Italia, di Spagna e di Francia. Vincerà un corridore che si dopa, altrimenti non ce la farebbe, e batterà un corridore che si dopa e dopo un altro che si dopa. E se le cure saranno state fatte in modo intelligente, l'antidoping non diventerà un problema. Si spieghi meglio. Ha visto cosa è successo nell'ultima settimana della Vuelta? Tutti i big che puntano a vincere il mondiale, i loro gregari, sono tornati a casa senza un motivo giustificato. Ho chiesto al mio direttore sportivo, Pierino Gavazzi, che è stato 3 volte campione d'Italia e ha vinto una Sanremo, come mai succede. Mi ha risposto che i corridori tornano per fare quello che in gergo viene chiamato il rifornimento, cioè per assumere EPO al riparo d'occhi indiscreti. È quello che i corridori chiamano la cura. La fanno tutti, il big che deve vincere e il gregario che deve aiutarlo. Unica avvertenza, sospenderla qualche giorno prima della corsa per non lasciare tracce il giorno fatidico. Altra domanda, osservazione, interpunzione, qualcuno però ogni tanto viene beccato. Risposta, ripeto, Ivano Fanini, presidente di una squadra ciclistica. Risposta, poca roba, nella rete generalmente finiscono i giovani come Riccò e Sella. Dopo i tanti casi di doping in cui era stato coinvolto già da dilettante, Riccò avrebbe meritato di essere squalificato a vita, in quanto a Sella fino a un anno fa era un corridore normale, di colpo al giro 2008 è diventato un fenomeno. Anche nel suo caso la spiegazione è il nome della nuova EPO, il CERA. Anche lui in un certo senso paga l'inesperienza. Errori così non li commette certo un Piepoli, la lunga ombra di Riccò, che la sua squadra ha licenziato lo stesso perché nessuno ormai si fida più di uno come lui. Dopodiché comincia una ricostruzione che riguarda pesantissimamente anche Pantani, con tanto di nomi e cognomi, e va avanti per un bel po'. Se qualcuno ha in casa la stampa, oppure se è incuriosito da una lettura di questo genere, farà bene a documentarsi. Tocca a Gianni da Siracusa, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Mi riferisco a un intervento di uno ascoltatore ieri pomeriggio, che mettendo a esempio la sua Fiorentina, contrapponeva come un esempio negativo Zamparini e il Palermo e la gestione della società. Ora, a me, io come tifoso del Palermo, non mi sembra che Zamparini, noi ci possiamo lamentare del nostro presidente, anche se ha licenziato qualche allenatore, ma tutto sommato li ha sempre pagati fino all'ultima lira, quindi non mi sembra che possano lamentarsi più di che. E tutto sommato la nostra squadra veniva dalla Serie C, e ora è stabilmente in Serie A, abbiamo visto qualche bel giocatore come Toni, Amauri, Miccoli. No, ma è vero, ma anche la Fiorentina veniva dal C2, probabilmente quell'ascoltatore, sì, io credo che non avesse fatto un parallelo particolarmente azzeccato, ma insomma voleva lodare la Fiorentina e gli è venuto il Palermo. Ora, se parliamo di cultura sportiva da parte di Zamparini, io non posso che dare ragione all'ascoltatore di ieri. Se parliamo invece della realtà Palermo, vista soprattutto oggi, per esempio, no? In questi giorni, dopo l'arrivo di Ballardini e questo eccellente rilancio anche tecnico e qualitativo, evidentemente il suo parallelo era stato abbastanza infelice, ma come siete permalosi però. Preferisco Giancarlo, che da Varese scrive che Alice ha dato un tocco particolare a questo appuntamento di oggi, e ne sono contento. Torniamo insieme con un altro dei ritagli. Allora, per par condicio, no, ma per il par condicio non c'entra nulla, per il principio dell'alternanza ero partito da Repubblica, passato attraverso la stampa, volevo atterrare sul Corriere. In realtà c'è un amarcord sul Corriere interessantissimo, che però si riferisce a una data di domani. Quindi, insomma, vediamo se c'è tempo. Questo invece tornerei a Repubblica, perché Perché c'è il resoconto dettagliato a firma di Carlo Bonini, dunque uno che se ne intende, di, sul processo a uno degli ultra napoletani dopo i fatti di Roma-Napoli. Allora, il titolo è «Treni distrutti e coltelli, un processo di 5 minuti, così si fabbrica l'impunità». Sentite il testo. Danilo Durevole, ultra da San Giorgio a Cremano, cui lo hanno detto per telefono, pare non volesse crederci, da non stare nella pelle. Alle 9:30 del mattino, nell'aula 7 della quarta sezione penale del Tribunale Ordinario di Roma, giudice monocratico Maria Bonaventura, lo Stato salda il primo conto, si fa per dire con la Domenica della Vergogna, 31 agosto, Roma-Napoli. 24 ore di normale devastazione e fanno 4 mesi e 10 giorni di reclusione, 800 euro di multa, sospensione condizionale della pena. Danilo, libero già la mattina del 1 settembre, libero resterà. Per liquidare una storia che non più tardi di 10 giorni fa aveva messo a rumore governo, opposizione, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sono sufficienti 15 minuti d'orologio. Danilo non c'è, se n'è rimasto a casa, perché la prima regola in un processo ultra è buttarsi a non farsi vedere, far dimenticare la faccia, eccetera, eccetera. Chino sul codice, il giudice si raddrizza, l'avvocato si raddrizza, patteggiamo, dice. Il giudice chiede in che misura. Mesi 3 di reclusione, 600 euro di multa e pena sospesa. Mi sembra un po' pochino, avvocato, non crede? Cacciotti, l'avvocato, appare sconcertato. Mi scusi, signor giudice, ma in fondo il mio cliente che ha fatto? Cioè, in fondo, Danilo Durevole ha avuto soltanto la sfortuna di essere uno dei due soli tifosi napoletani arrestati quel giorno. Se ne stava tranquillo in curva nord con una torcia esplosiva in mano. Era arrivato da Napoli su un treno, sequestrato in partenza e devastato lungo il tragitto. 500.000 euro di danni. Da Termini aveva raggiunto l'Olimpico su un convoglio speciale dell'ATAC, da cui, lungo un tragitto di poco più di 4 chilometri, erano state lanciate appena 41 bombe carta. Aveva soltanto menato mani e piedi con chi lo ha arrestato. Allarga le braccia l'avvocato Cacciotti, in un crescendo di enfatica incredulità. Una vicenda come al solito amplificata dai media. Il ragazzo è incensurato e in fondo risponde solo del possesso di un petardo e di resistenza alla polizia. Normale quando si viene fermati in uno stadio. Il giudice lo interrompe. Il contesto in cui si sono svolti i fatti è particolare. Provi a riformulare la richiesta, avvocato. Allora sentite, Cacciotti riformula. Potrei arrivare a mesi 4 e giorni 10. Il giudice, 4 mesi e mezzo direi, stiamo parlando di 5 giorni di differenza, eh? Cacciotti, no giudice, 4 mesi e 10 giorni che peraltro è perfettamente divisibile con le imputazioni. Guardi, facciamolo insieme. Pena base, mesi 9 di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche a mesi 6, aumentata per il secondo capo di imputazione a mesi 6 e giorni 15, oltre ai 1.200 euro di multa. In forza del rito, ridotta a mesi 4 e giorni 10, più 800 di multa. E naturalmente sospensione condizionale della pena. Il PM annuisce distratto. 5 minuti di camera di consiglio, 4 mesi e 10 giorni siano. Pena sospesa. Poi c'è l'altro imputato, ma c'è il finale soprattutto di questo articolo di Carlo Bonini, che dice: sul fondo dell'aula i due poliziotti del reparto Celere che hanno arrestato De Martino, il secondo di questi, hanno la faccia di pietra. Uno di loro, Gianluca Salvatori, incrocia l'avvocato Contucci. Ma non vi vergognate, dice. Credo che sia l'unica domanda possibile, ma da non rivolgere soltanto a un avvocato difensore, io credo. In linea c'è Luciano da Genova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Signor Garanzini, guardi, io credo che sia la seconda volta che telefono da quando sento la sua trasmissione, che sono alcuni anni. E è una trasmissione stupenda, i complimenti comunque non servono a niente, vi stimo moltissimo. Ora, io però vorrei dirle una cosa. Allora, la prima partita che ha giocato l'Inter con Mourinho allenatore ha inventato un catenaccio che l'Italia purtroppo aveva inventato già 50 anni fa. Esaltano questo modo difensivo di Mourinho, che non è altro che un catenaccio un po' più organizzato, primo. Secondo, sento i giornalisti, non voi, parliamo sempre di altri, sento i giornalisti che esaltano le qualità di questo Mourinho al punto che in una trasmissione di Sky, Benfica, Inter, ho sentito il cronista che diceva: l'Inter ha assimilato in una maniera perfetta il non possesso palla, ma siamo fuori dal mondo. Il non possesso palla cosa vuol dire? Difendersi senza vedere la palla, senza poterla toccare, non lo so. No, non io vuol dire solo quello. Mi scusi, ho avuto il sospetto che signor Mourinho e forse qualche altro allenatore, con gli ingaggi che prendono, una parte foraggino una parte dei giornalisti, perché è impossibile sentire dire delle cose così allucinanti, mi scusi. Chiedo da lei un po' una risposta corretta, che so che lei lo è. Sì, non semplicissima per la verità, perché insomma esiste anche una fase di Non posso adesso parla in cui una squadra deve disporsi al meglio, anzi io credo che dal modo in cui una squadra senza palla si dispone in campo, questo non riguarda Mourinho, non riguarda... io sono rimasto legato a Rocco, quindi si immagini cosa mi importa di Mourinho, però voglio dire, vale per tutti, no? Se da quando la palla la perdi e c'erano gli avversari, a seconda di come ti disponi hai più probabilità di riconquistarla rapidamente e soprattutto di fare in maniera che i danni che gli altri li possano fare avendo la palla a disposizione siano relativi. Quindi insomma io ci andrei un po' pianino su quell'aspetto. Se poi esistono delle frasi infelici, esiste molto enfatismo, esiste questo luogo comune dei giornalisti foraggiabili, no? Come ha detto lei, che purtroppo temo che qualche fondamento lo possa avere, anche se indubbiamente un po' di orticaria soltanto a sentirlo la provoca. E quindi insomma andiamo a Prato, dove troviamo Giorgio. Buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Dica. Guardi, mi riferisco alla trasmissione, lei non era presente, di venerdì scorso, no? Mi pare ci fosse il dottor Genta, no? Sì. In particolare, in riferimento al famoso gol del Lione contro la Fiorentina, no? C'è stata un po' la corsa di alcuni opinionisti a entrare tutti nella riserva indiana di coloro che giudicavano il gol regolare e il comportamento del Lione ineccepibile, diciamo. Io non sono molto d'accordo nella fattispecie, perché... se è vero che tutti noi appassionati di calcio siamo stanchi di queste manfrine, ecco, secondo me la fattispecie il discorso è un po' diverso, non tanto perché Zauri era a terra semi svenuto, lasciamo perdere questo, ma quanto piuttosto, e questo non è stato detto da nessuno, perché lo stesso Zauri a terra semi svenuto era colui che teneva in gioco Benzema, perché Benzema se no sarebbe stato un metro in fuorigioco. Secondo me è in questo che inficia comunque la validità del gol. O se no si decide, qualsiasi cosa succede, il regolamento, uno può anche essere morto per terra, il regolamento allora va avanti a tutto, e allora però il dottor Genta della situazione non mi può contestare poi lo stesso arbitro quando convalida il gol dell'Olanda contro l'Italia. Giorgio, non lo so, tra le tante soluzioni adottabili ci sarebbe anche quella di liquidare, cioè a un certo punto di darle per finite queste storie, no? Che risale a, visto che risale a mercoledì scorso. Io il giorno dopo mi ero permesso di dire che Freinfeld, cioè questo arbitro svedese che aveva preso questa decisione, di ricordare che era lo stesso che in Italia-Olanda aveva deciso che Panucci fuori campo teneva in gioco Van Nistelrooy, che mi sembrava un colmo persino superiore a questo nel caso Zauri, e che quindi due indizi a carico di uno stesso arbitro internazionale così cominciano a lasciare una piccola scia di sospetto. Però stiamo parlando dello scorso giovedì al più tardi. Sinceramente sono molte le reazioni a queste buone, anzi cattive letture che vi ho proposto prima, però ci sono anche notizie. Per esempio Trezeguet è stato operato stamattina, l'intervento, come si dice in questi casi, è ovviamente quanto perfettamente riuscito, ma in base a ma i chirurghi Quaglia e Cerilli che lo hanno materialmente operato insomma, hanno parlato di una prognosi che tende più verso i 4 che non verso i 3 mesi, e quindi credo che prima di fine gennaio, metà febbraio, Trezeguet non tornerà a disposizione di Ranieri. Torniamo in onda col ripasso di storia, affidato come sempre a Nicola Filippone. Sembra ieri. 23 settembre 1984, Diego Armando Maradona segna la sua prima rete in campionato. Al San Paolo trasforma un rigore che consente al Napoli di portarsi in vantaggio sulla Sampdoria, ma i blucerchiati riescono a pareggiare con Salsano. Nelle sue 7 stagioni italiane, Maradona ha realizzato 81 reti in Serie A, l'ultima delle quali è datata 24 marzo 1991. Anche in questo caso su rigore e ancora contro la Sampdoria, a Marassi, in un incontro vinto per 4-1 da Vialli e compagni. Maradona è stato l'unico giocatore nella storia del Napoli a vincere la classifica dei cannonieri, nel 1987-88, con 15 reti. Maradona, ed era proprio questo l'ultimo ritaglio che tenevo da parte, perché il Corriere della Sera di stamane ricorda che domani cadono i 25 anni dalla volta che quel macellaio di Goicoechea dell'Athletic Bilbao gli spaccò una caviglia. Mario Porqueddu del Corriere della Sera è andato a cercare Goicoechea e ha raccontato un pochino, visto dal suo punto di vista, quella data che aveva rischiato di troncare la carriera più grande calciatore di tutti i tempi. Ne parliamo domani, visto che l'anniversario è per domani, perché sto vedendo che mi spiacerebbe sacrificare tutti gli ascoltatori già in attesa. Metto da parte questo ritaglio, tengo solo a sottolineare a proposito di ciclismo, di doping, di questo articolo molto duro, molto pesante che vi ho letto dalla stampa di stamane, qualcosa si muove. Per esempio, questo no del CONI provinciale di Modena all'ufficio scolastico provinciale, l'ex provveditorato di Modena, a Riccò. In che senso? Nei giorni scorsi Riccò, squalificato per doping, come sapete, al Tour, aveva detto: ho capito di aver commesso un errore e adesso vorrei che altri non cascassero nella stessa trappola. Andrò nelle scuole e racconterò la mia storia. Ed è stato molto opportuno, a parer mio, che il dirigente provinciale del CONI, Franco Bertoli, e il dirigente scolastico Gino Malaguti, leggo dall'ANSA, abbiano risposto: non crediamo che Riccardo Riccò possa rappresentare l'esempio migliore per gli studenti modenesi dal punto di vista dell'applicazione dei valori e della lealtà sportiva. E cioè un no grazie che mi sembra molto, molto ricco di significati. Lorenzo scrive: dottor qua, dottor là, si può essere un po' meno formali? Lorenzo, io lo chiedo da 9 anni, non, mi chiamo Gigi, mi chiamo Garanzini, non sono le dottore e le infermiere, però se chi interviene usa questa formula, come faccio ad impedirglielo? Vediamo se ci riesce Giovanni, provincia di Pistoia. Buongiorno. Ciao Gigi, buonasera. Bene. Mi accontento subito. Sì. Ascolta, io volevo intervenire sul discorso della sentenza che hai appena letto sul giornale, no? Ma tutta questa tolleranza zero, questi palloroni, questi slogan che coniano al momento e poi dopo, questi sono i risultati, diciamo. Dove andiamo a finire così? Ah, questa domanda, io mi sono già dato una risposta da tempo e preferirei non diffonderla via etere, perché non è particolarmente incoraggiante e forse neanche molto presentabile, quindi è una domanda che non va fatta a me sinceramente, ma che esula anche un tantinello, per fortuna, dai miei compiti, diciamo, a questo microfono. Tocca a Francesco. Sì, volevo però ricordare prima che, a proposito di non tanto di calcio, in questo caso di editoria internazionale, di novità, l'Equipe avrà un concorrente presto, nel senso che uscirà un altro quotidiano sportivo in Francia che sarà in edicola dal 3 novembre. Sarà Le 10 Sport, cioè il numero 10, e costerà 50 centesimi. Nasce un'iniziativa, leggo qua, di Michel Moulin, che è un ex consigliere del Paris Saint-Germain. Certo che chiamarsi 10 e essere un quotidiano sportivo alternativo, forse non hanno pensato i francesi a un precedente italiano, diciamo di un anno e mezzo fa circa, che non fu particolarmente felice, se non altro per la durata. Ha chiamato Francesco da Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo intervenire in merito alla sentenza dei tifosi. Quando si dicono certe cose, no, alla fine non si deve meravigliare se poi c'è tutto questo disamore delle persone per bene per quanto riguarda l'Italia in generale. Perché se qualcuno dice che uno dei cancri della nostra società sono i giudici, vuol dire che tutto sommato non ha torto, e qualcuno dovrebbe capire che al di là della fede politica questo va nell'interesse di tutti, perché se una persona normale che ha la sfortuna di voler essere una persona per bene, se anziché fare 50 all'ora su una strada a 3 corsie, su un rettilineo, ne fa 60 e becca 200 euro di multa, e sta gente non beccano neanche quella, non so. Sì, a me non sembra che sia... non sembra che sia il potere giudiziario in questo caso, da questo articolo di Bonini e da questa corrispondenza molto dettagliata a uscirne con le ossa rotte. Mi sembra il potere legislativo, semmai, perché se l'avvocato difensore può permettersi questo tipo di patteggiamento, e se con il giudice monocratico si instaura questa sorta di mercato, È evidente che questi due signori stanno, questi due professionisti stanno applicando un stanno discutendo sull'applicazione o meno di un tariffario preciso, ma un tariffario che viene dalle leggi. E quindi non tanto il potere giudiziario, secondo me, quanto quello legislativo. Mi sembra un. Poi è vero che oggi i poteri vanno mischiati, però insomma, mi sembra che in questa fattispecie non ci siano tanti dubbi. In proposito, notizie di giornata. Dunque, per Milan-Inter, cioè per il derby di San Siro domenica sera, sarà autorizzata la vendita di un solo tagliando a spettatore. L'ho deciso per decreto, dopo aver sentito il questore, il prefetto Lombardi. La scelta del prefetto, si legge in una nota, tiene conto del parere dell'osservatorio, secondo cui l'incontro tra le due società milanesi deve essere considerato non ad alto rischio e quindi passibile. Di essere disputato con la partecipazione di entrambe le tifoserie, ma con limitazioni alla vendita dei biglietti. Credo che l'osservatorio sia un disastro anche dal punto di vista del rispetto dell'italiano, perché si fa fatica persino a leggere i loro comunicati. Daniele in linea da Parma, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Una considerazione piuttosto amara sull'articolo del ciclismo, perché a parte che ormai la penso che la sapeva tutta Italia questa cosa qua del doping, che ormai è dilagante, e l'unica cosa positiva della giornata forse è il no che hanno dato a Rick Hopper. Ecco, esatto, io quello sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto, però resto completamente amareggiato da quello che ha detto una persona che ne capisce sicuramente più di me e che poi purtroppo dobbiamo tutti essere la verità. Grazie Gigi. Grazie a lei, c'è poco da stare allegri oggettivamente. Dunque, tocca, vediamo un po' se c'è qualche. Ah sì, escono ovviamente le ultime notizie dei ritiri, perché siamo alla vigilia di un turno di campionato, ve lo ricordo, domani sera alle 20:30. Allora, Di Natale non è stato convocato per Bologna Udinese per un'influenza, quindi. In attacco leggo Quagliarella, Pepe e Sanchez per l'Udinese a Bologna, ma non Di Natale. La Roma invece ha recuperato Aquilani, che ieri sembrava in dubbio per un problema muscolare ed è regolarmente nella lista dei disponibili. In compenso non parte per Genoa-Roma, non partono né Totti né Cassetti, e che vanno ad aggiungersi ai forfè di Pizarro, Juan e Battista. C'è in linea Isidoro da Bergamo, buongiorno. Da provincia di Caserta, ma va bene lo stesso. Provincia di Caserta, errore di geografia grave direi, tra Bergamo e Caserta un paio di chilometri corrono. Dica, ma mi piacerebbe anche stare a Bergamo adesso, guardi. Comunque, buongiorno e complimenti sempre per la trasmissione, anche se sono oramai un fervente ammiratore e seguo tutti i giorni la vostra trasmissione. Sì. Allora, io comincio ad avere un serio problema nel mio carattere, perché ho un difetto, sono molto dubbioso, i dubbi cominciano ad assalirmi giornalmente, e quando leggo questi articoli, come ho letto questa mattina, a dire la verità non compro la stampa, ma devo dire la verità, dopo che mi avevo sentito parlare di questa intervista, sono andato a leggerla proprio appunto di proposito, e la ringrazio perché fosse stata l'unica trasmissione ad aver parlato di questo. Comincia a venirmi qualche dubbio, perché qualche anno fa ci fu un allenatore nel calcio che parlava di qualcosa del genere, anche nel calcio, però poche cose sono state messe a tacere con delle sentenze che non voglio nemmeno ricordare, perché anche quelle forse sono allo strego di questa sentenza sui tifosi, quindi qualcosa di scandaloso. Ma mi viene un dubbio, signor Gigi, vorrei sapere una cosa. Spesso si vedono degli infortuni, proprio ieri sera la Sky faceva una trasmissione solo sugli infortuni a Sky Sport 24, scusi per la complicità occulta, ma non è possibile, secondo lei, che tutti questi infortuni che si hanno nel mondo del calcio, che oramai sono diventati all'ordine del giorno, dove poi non vengono verificati sul campo, cioè un giocatore che esce dal campo, che saltella, che esulta dopo il gol, poi si viene a sapere che ha una distrazione al retto femorale, 13 giorni di stop, e non sbagliano mai i dottori sportivi, proprio quei 13 giorni sono 13 giorni, oppure quelle due settimane, ma non è che in quel periodo non certificato questi signori vanno a fare il rifornimento che vanno a fare i ciclisti? Non credo, sinceramente non credo, Isidoro, non lo so, non c'è nessuna spia di questo, non ci sono riscontri, c'erano dei casi isolati, lo sappiamo, che riguardano giocatori ancora anche in attività, che hanno trovato scuse risibili, che hanno forse avuto degli sconti eccessivi, ma come fenomeno sporadico, non certamente come fenomeno di massa. Filippo Aureggi dalla regia mi fa cenni, non ancora disperati, ma insomma cenni, segnalazioni, avvisi per i naviganti, vuol dire che il tempo è scaduto, quindi grazie a lui, grazie a Flavio Suardi in redazione, alla non meno leggendaria Rosa al centralino, e appuntamento per tutti a domani.